Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. In diretta dal padiglione 2, dallo stand di Radio 24 del Salone del... Mazza. Aspetta, no, ricomincio da capo. Me la rimandi la sigla, per piacere? Sta andando, ok, ce l'hanno a Milano. Alzamela solo un po'. In diretta dal padiglione 2, dallo stand di Radio 24, J166. Voi siete qui e oggi mi è successo che... Ora. Ringrazio innanzitutto Laura Vanossi che ha fatto partire questo applauso spontaneo e tutte le persone che sono sedute qui allo stand di Radio 24 in diretta dal Salone del Libro, e anche quelli che passano e fanno finta di niente, potete anche fermarvi, non è che vi costi così tanto. Dura 45 minuti il programma, facciamo un esperimento oggi, è lo stesso che abbiamo fatto ieri, si chiama Oggi mi è successo che. Esiste un hashtag su Twitter, partiamo subito con l'hashtag per vedere subito le facce perplesse della gente qui. È semplicemente un argomento di discussione che si svolge là. Si svolge sul 349-238-6666 e soprattutto qui, per chi è a casa e non ha visto cosa è successo, sono arrivate già un sacco di persone prima della diretta, gli ho chiesto di compilare un foglio, che è questo qui, dove c'era scritto semplicemente il nome, la città o il paese da cui venivano e un avvenimento che gli era accaduto oggi, durante questa giornata. Nell'arco della puntata comporremo un racconto composto proprio da questi piccoli avvenimenti. Ve ne leggo già qualcuno prima di partire, perché sono proprio delle piccole schegge di vita. Giovanni Torino: oggi mi è successo che il vigile mi ha fatto una multa. È scritto con la grafia di un bambino, però dov'è Giovanni da Torino? Non c'è Giovanni, giustamente ho detto che la grafia di un bambino. Sei tu che ridi, Giovanni? No, niente, Giovanni se n'è andato. Andrea: sul treno regionale dalla centrale sale con me la comitiva di, magari in italiano, di liceali di prammatica. È giorno di salone, mi dico. Salgo largo ai giovani. Sono col professore di spagnolo, sarà un linguistico. Però vanno al museo del cinema, leggono la descrizione della mole, la torre, gli albori del film. Che cos'era la mole? Si chiede uno di loro. Ma una moschea, mi pare. Dov'è Andrea? Andrea, sei tu? No? No, non ho capito. Vabbè, Andrea, mi spieghi esattamente che cosa significa? Cioè, tu eri sul treno con loro e hai sentito questo dialogo? Sì, questo dialogo è un po' surreale perché le origini della mole sono tutt'altre e mi è sembrato una cosa molto, molto curiosa. Molto peculiare, quantomeno. Prego? Molto peculiare. Molto peculiare in questa situazione. Ma dico questa parola perché l'ho imparata ieri, semplicemente, e mi piace ripeterla. Grazie mille. Figurati. Fabrizio viene da Ivrea: non ho trovato parcheggio. Questo quanto, diciamo, eccolo là, Fabrizio. Quanto le automobili hanno grossa importanza nella nostra vita e soprattutto sul nostro umore. Sei venuto qui apposta, Fabrizio? No, mai sentito il programma. Mai. Non l'hai mai sentito? Mi ha portato mia moglie, mi ha trascinato qui, mi ha fatto sedere qui obbligatoriamente. Ok, per tua moglie invece passiamo il microfono tutti a una. Tutti i giorni. L'ascolto tutti i giorni, per fortuna. Stavo già sudando freddissimo. Come ti chiami innanzitutto? Mi chiamo Raffaella. Raffaella. Ho scritto che finalmente conosco Matteo Caccia. Okay. Che invece ascolto tutti Eccola i giorni. Eccola qua, Raffaella Ivrea. Sono riuscita, però siccome devo leggerle io, se magari scrivete tipo in stampatello, sono riuscita a conoscere Matteo Caccia, compagno di tutti i giorni. Tu ascolti dove? In auto? No, ascolto mentre lavoro. A casa? Sì, che lavoro fai? Lavoro in un negozio di abbigliamento con i miei zii. Sì. E ascoltate Radio 24? Sì, tutto questa, il giorno. Questa per noi, lo chiedo a Roberta Lemi, amministratore delegato, è una novità assoluta. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Quindi tu ascolti da Giannino? Sì. Alla Zanzara? Esatto. Ok, sì. Perfetto. Sì, sì. C'è qualcosa che non ascolti? No, perché ce l'avete acceso tutto il giorno. Tutto. No, assolutamente. Non fate neanche pausa, voi rimanete lì tutto il giorno, non andate a fare pipì, non fate pausa pranzo. C'è la pausa pranzo, però quando si arriva si rimette su Radio 24. Grazie. Raffaella, giusto? Sì, sì, sì. Salvo da Cuneo: oggi mi è successo che mi sono svegliato male e ora mi sento peggio che mondo di merda. Salvo, ha una bella giornata. Dov'è Salvo? Salvo? Niente, è andato via. Ma giustamente neanche io alzerei la mano, come agli esami dell'università quando vedi che proprio non sai niente. E poi Raffaele Costamagna, Cuneo. Raffaele, sei il mio idolo. Questa mattina dovevo partire presto per venire a Torino. Vi dico perché è il mio idolo adesso. Siamo già in ritardo, Bonini? Abbiamo un minuto, ok. Questa mattina dovevo partire presto per venire a Torino, ma mia mamma mi ha obbligato ad andare al catasto per ottenere i dati necessari per il pagamento dell'IMU. Tu sembri uno fatto apposta per questa radio. Dopo una coda immensa, in 5 minuti ho finito e sono corso in stazione, ma il treno era partito da circa un minuto. Autobus sostitutivo e poi cambio treno. Arrivo al Lingotto e ricorsa sotto al sole a 28 gradi verso il Lingotto. Pranzo al volo, conferenza di quell'antipatico di Sgarbi e io sono qui. Ti dico perché sei mio idolo, Raffaele, perché per come era scritto, cioè per la grafia e per la storia della mamma, io ero convinto tu avessi 21 anni. Invece sei un cristiano di 50... No. No, 40, no, 42. Al 21 di testa, come dico sempre io. Però hai 43. E non c'hai uno straccio di fidanzata, di moglie. Sposato. Ah, ma figli. Sei una persona normale allora. Due figli. Ma quindi, cioè, hai due figli addirittura. Mio figlio sta ascoltando in questo momento. E facciamo un saluto al figlio. Sì, ciao, ciao figlio. Simone, ciao Martina. Ciao Simone, che roba orribile salutare i figli. Visto che saluti i figli in diretta, è orribile. Ci sono i miei genitori per la prima volta a vedermi. Sono imbarazzatissimi. E poi basta, zero. Bonini dice zero, quindi vuol dire che dobbiamo partire con il racconto. Poi andiamo avanti perché questi sono la cosa più interessante. Salutiamo anche Enrica che mi ha fatto un regalo, mi ha regalato un libro, ma ne parliamo dopo. Vi dicevo, l'esperimento è questo qui. Ho preso alcuni dei racconti, perdonatemi, degli episodi che mi avete mandato e in una ventina di minuti ho scritto questa storia di tutte le vostre storie. Se fossi Chiara, oggi vi direi che ancora una volta ho imparato dai bambini. È successo perché ho fatto scrivere un pensierino sul perché non si debbono dire le bugie. E come sempre hanno ragione loro. Se fossi Salvatore, vi racconterei una storia, quella che ho proprio questa mattina letto nel libro più piccolo del mondo. Se fossi Michela, vi direi che non conosco questo programma e nemmeno la radio, ma ho trovato una sedia libera e sono qui per riposarmi. Sarei molto sorpreso invece se fossi Barbara, perché a quest'ora della giornata non ho ancora comprato niente. Mi chiamassi Mario, vi direi che sono qui solo per far felice un amico che mi ha fatto fare chilometri a piedi sotto il sole e con la pancia piena di cibo. Se fossi Davide, sarei pronto a cominciare una vita nuova, perché oggi vi direi che ho cambiato residenza, per me e per la mia fidanzata. E dopo aver comprato casa insieme, questo sembra un passo altrettanto importante, l'inizio del resto della nostra vita. Se fossi Giuseppe, invece, sarei finalmente pieno di speranza. Vi direi che sono un regista e sono qui per promuovere il mio film, che non è distribuito in Italia. Vi direi che questa cosa mi spiace e mi frustra, ma vi direi anche che stamattina mi è caduto il DVD del film dalle tasche e un signore me l'ha restituito chiedendomi cos'era. Io gli ho risposto che era il mio film e gli ho raccontato la trama. Lui mi ha chiesto se poteva tenerselo e alla domanda su chi era, lui mi ha risposto: sono un distributore cinematografico. Se avessi 9 anni, invece, e mi chiamassi Emma, vi direi che sono venuto qui con la mia mamma dopo aver fatto l'orto questa mattina a scuola. La mia storia invece è questa. Oggi mi è successo che... Oggi mi è successo che mi sono svegliato in una stanza d'albergo e, come succede sempre quando mi sveglio in una stanza d'albergo, ho la sensazione di non essere io. Mi sembra di essere un'altra persona. È una questione di identità più che di luogo, non so perché. Però a quel punto, quando ho capito che sono io, mi alzo e mi guardo allo specchio. Quando mi rivedo, tiro sempre un sospiro di sollievo. Salvo poi guardarmi bene e notare che alla fine sono un tizio di quasi 40 anni, con addosso una maglietta stropicciata e spesso di un colore indefinito tra il bianco e il rosa per via di qualche lavaggio sbagliato, che ho la barba lunga e i capelli sparati in aria e che sono ormai in fase di caduta conclamata. Ecco, forse lì un po' realizzo che non sarebbe stato male provare ad essere un altro, per una volta. Anche solo per un po'. Giusto tempo di infilarmi una camicia e un paio di pantaloni di un altro, e poi scendere, con la sua faccia, e fare colazione mangiando quello che piace a lui, invece che di ingozzarmi sempre con la solita brioche alla marmellata pucciata nel solito cappuccino. Ecco, stamattina, come al solito, quando ho realizzato che io ero io e la stanza era quella di un albergo, sono sceso a fare colazione. Era tardi, quindi la sala ormai era quasi deserta. C'erano solo una coppia inglese o americana, a giudicare dall'ingresso, dall'accento, e un tizio seduto a un tavolo vicino all'ingresso. Indossava una camicia a fiori e dei sandali, quindi ho immaginato che fosse tedesco e facesse l'agente di commercio. Una cameriera, che chiaramente ce l'aveva con me perché ero arrivato giusto 5 minuti prima del termine delle colazioni, mi ha chiesto cosa volessi e io le ho detto un cappuccino e una brioche con la marmellata. La coppia americana stava litigando, o meglio, lei stava litigando, lui ascoltava e faceva di no con la testa. Ho colto giusto qualche parola e mi è parso che il motivo della lite fosse una cosa detta da lui a qualche cena o a qualche occasione mondana, qualcosa che l'aveva fatta sentire una cretina. Il tedesco con la camicia a fiori invece li osservava, tenendo la tazza del caffè in una mano e una matita nell'altra. Ogni tanto abbassava la testa e scriveva. Nella sala c'era odore di brioche e disinfettate per pavimenti. La coppia litigava, il tedesco fiorato scriveva e io mangiavo la brioche pucciandola nel cappuccino. Poi la coppia ha finito di litigare e di fare colazione. La cameriera scocciata mi ha detto che dovevano chiudere la sala colazioni e ha iniziato a sparecchiare il mio tavolo. A quel punto io mi sono girato e il tedesco non c'era più. Mi sono alzato per andarmene e mentre uscivo sono passato davanti al tavolo del tedesco e sulla tovaglia c'era un tovagliolo di carta completamente coperto di parole scritte a matita. Non ci ho pensato due volte e me lo sono infilato in tasca. Ho aspettato a leggerlo, ci ho messo un po'. Ho aspettato di essermi fatto una doccia ed essermi preparato per venire qui. Poi mi sono messo sul letto e l'ho seduto. Ecco, questo era quello che c'era scritto su quel fazzoletto. Il ponte della nave è deserto. Ci sono solo una cameriera scorbutica che lancia occhiate di odio verso gli avventori e una coppia francese che amoreggia insieme a un tizio in abito da sera, in un angolo, anche se è giorno e c'è il sole. Il cielo è screziato da una nuvola e il vento ripulisce il mare intorno alla nave. La coppia francese non smette di baciarsi, mentre il tizio in abito da sera beve un cocktail color vermiglio. Deve essere un musicista, che ieri ha fatto tardi e l'unico modo per riconciliarsi alla vita è infilarsi un po' di alcol nel sangue. La ragazza francese si alza per sedersi sulle gambe del compagno e lui le indica qualcosa oltre il parapetto della nave. Anche il musicista se ne accorge e ora tutti stanno guardando fuori, verso il mare. E per capire cos'è quella cosa là in fondo che si avvicina, ci mettono poco. La guardano e quella è chiaramente un'isola. Ecco, oggi mi è successo che mi sono infilato in tasca il tovagliolo con quel racconto e sono venuto qui. E mentre camminavo tra i padiglioni del salone, proprio mentre stavo arrivando, ho visto il tizio con la camicia a fiori, quello che io credevo fosse tedesco e invece italiano, quello che credevo fosse un agente di commercio e invece uno scrittore, che presentava il suo libro in uno stand qui vicino. Questo mi è successo oggi, che nella sala colazione di un hotel di lusso, un tizio che di mestiere immagina le vite degli altri ha pensato per me un abito diverso, un mestiere diverso, una colazione diversa e un'identità diversa dalla mia. E mentre leggevo quel tovagliolo di carta, ho pensato che in fondo basta poco per immaginarsi in un modo diverso. Basta svegliarsi la mattina in una stanza d'albergo oppure leggere un libro e la realtà è sempre meno obbligatoria di quanto sembra. Ho visto Carlo. Era vestito da coniglio, lavorava al parco giochi domenica sera. Distribuiva palloncini ai bambini e alle mamme divorziate da poco più di un'ora. Mi ha detto che non parte più per il Giappone, che la pesca del tonno quest'anno è andata male. Male, ma per me. Lui ha paura degli aerei. Poi ho incontrato Cristo che viaggiava su un autobus per New Orleans, con le Converse rotte dalla strada e la barba di chi ha perso tutto nella vita e se ne va in un'altra città, in un altro condominio, in un altro paradiso ad ore con aria condizionata e frigo bar. C'è che passa il tempo e che lo spazio resta sempre quello. parlo mai, mai. E forse è meglio. Io non parlo mai dei miei viaggi interstellari a bordo dei limoni volanti. Io non parlo mai di me e di te. Siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino, al Padiglione 2, Radio 24. Facciamo sentire che siamo in diretta e che c'è un sacco di gente. Non perché ci interessi far sapere che c'è un sacco di gente, ma per far sapere che siamo in diretta. Io non so com'è, sono attrattissimo da quelli che passano di là. Mi verrebbe sempre voglia di prenderli e portarli... Però fan finta di niente, lo capisco. Voi però che siete fermi, potreste avvicinarvi un po'? C'è puzza? C'è puzza, non vuoi parlare? C'è odore? Non ho capito cosa ha detto. C'è puzza? Come? Non ci avviciniamo perché c'è puzza. Ah, perché voi puzzate? O io puzzo? Va bene, questo dialogo surreale lo concludiamo immediatamente. Gabriele, allora Gabriele mi ha scritto... Tanto c'è gente che si alza, dà la mano ad altri con i baffi che arrivano da fuori. Benissimo. Gabriele, fai sentire che sei qui, Gabriele. Ciao, Gabriele. Eccomi. Eccoti qua. Quanti anni hai, Gabriele? 13. Ecco, c'è stata una diatriba familiare oggi a causa di questa radio, di questo programma. Spero che tutto si sistemi. Vedo già Chiara là dietro un pochettino impaurita. Perché Gabriele, che viene da Torino, mi ha scritto... Oggi mi è successo che volevo assolutamente venire a sentire voi siete qui in diretta con la mia famiglia. Siamo passati alla scuola di mia sorella Chiara senza averglielo detto e l'abbiamo presa da scuola in anticipo. Cioè l'avete praticamente sequestrata da scuola, mi sembra, sì, di sì. Capire. Ma è legale tutto ciò? Lo chiedo al padre. È legale. Cioè avete firmato una giustificazione. Ecco, mi dici cosa avete scritto sulla giustificazione? Andiamo al Salone del Libro a sentire... Voi siete qui. Adesso voi siete qui, perfetto. Questo è il punto. E Chiara, poi tu ti prego, vienimi incontro. Dopo che è salita in auto, è scoppiata a piangere perché non voleva venire. Cioè, Chiara, tu non volevi venire qui o volevi rimanere a scuola? Beh, un po' tutte e due. Ma che classe fa, Chiara? Quinta. Fai quinta elementare. E va tutto bene, quindi? Cioè, una delle poche bambine che vuole rimanere a scuola in quinta elementare? No, non è vero. Niente, mia mamma interviene, come giustamente, essendo qua, interviene perché vorrebbe dire delle cose. Gabriele, tu invece ascolti il programma quando? Come? La rifaccio. Sì. Quando era posta male effettivamente la costruzione della domanda. Quando ascolti il programma? Me lo fa ascoltare mio padre. Niente, è obbligato. Io speravo che mi dicesse lo ascolto, invece no, a forza il padre lo obbliga in macchina. No, io voglio ascoltarlo. Lui li scarica e poi me li fa sentire. Quindi in podcast li ascoltiamo. Sì. Ok. E li ascolti dove? Sul cellulare. Ma dove ti trovi abitualmente? Non per farmi fatti tuoi, in automobile. Viaggiando. In automobile. Cioè, questa è solo una parte della famiglia, cioè Gabriele e Ugo, e poi c'è l'altra parte che è Chiara, che veramente ha le palle girate in una maniera incredibile. Chiara, ti prego, non fare così. Dimmi che sei un po' contenta di essere qui. Sì. E poi c'è la mamma di fianco, che è l'artefice, e la sorella. Ah, c'è una sorella più grande anche, che è stata strappata dall'università. Cioè, avete praticamente sequestrato i figli da scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ve ne vorrà fino alla fine. Ugo sei qui, giusto? E Ugo scrive: non ho sequestrato i figli da scuola, ho tirato fuori la camicia bianca dall'armadio dove giaceva da 7 mesi perché oggi è arrivata l'estate. Oggi è arrivata l'estate di colpo, possiamo dirlo, ci sono 30 gradi fuori a Torino. Vittoria, Torino, oggi mi è successo che ho imparato a fare una cavalletta con la carta. Vittoria, sei tu. Senza imbarazzo, ti prego, perché io mi imbarazzerei a dire una roba del genere, ma no, so che tu no, perché l'hai scritto. A uno stand qui alla Fiera del Libro. Salone, Sarrabbi, sì, se la prendono. Al Salone del Libro mi hanno insegnato a fare un origami. Ma scusami, un origami con la... Possiamo non mandare la borsa? No, aspetta. Un origami ricavato con la carta delle mele? Sì, fanno la carta con le mele. È una forma di riciclaggio. Sono solo io che non ho capito niente, oppure la carta delle mele, nel senso che fanno la carta con le mele? Sì. Fanno te la faccio vedere. Brava, fammela vedere. Io lo descrivo in diretta. Mancano 30 secondi. Tazzo. Tiziano Bonini ha trovato questa forma tecnologica di scrivere sull'iPad di non so chi quanto. Guarda, manca. Perfetto, posso prenderlo al volo? Certo. Ma non è la carta che sta attorno alle mele? No, è carta fatta con le mele. Va bene, mi hanno detto così, poi. Ho imparato a fare una cavalletta con la carta, un origami con la carta ricavata dalle mele. Poi gli facciamo una foto e la metti, guarda, la facciamo adesso col fotografo. che si chiama? Sì, adesso è un uccellino in realtà. È un uccellino, vabbè. Perché ma non me ne dici una giusta allora, scusami. Eh no, perché lui mi ha insegnato a fare la cavalletta, sì. Questo qua che era allo stand. E poi me l'ha trasformato in un uccellino per far vedere che dalla cavalletta me lo trasformava. Ma chi era? D'Alema? Chi è che insegna a fare gli origami con la carta del mele? Grazie, dobbiamo abbiamo zero minuti e zero secondi. Voi rimanete qui ovviamente, sequestrati, anche quelli a casa, perché dopo parliamo dell'ebook. E vi chiedo qual è il racconto che avete preferito dei 100 che sono stati scelti dall'ebook. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Siamo tutti qui oggi al Salone del Libro. Ci sono un bel po' di persone sedute anche in piedi. Quindi la fotografia che ho davanti è quella di un pubblico. Gente che passa sempre, niente. Sono quelli che mi rimangono più impressi. Perdonatemi, non è una questione personale nei vostri confronti, che invece siete qui seduti, ma è proprio è personale invece nei confronti di quelli che passano e non si fermano. Ci saranno quante? Ci contiamo più tardi. Forse 60, 70 persone tra in piedi e sedute. Lo stand è il solito, è Radio 24, il Salone del Libro, Padiglione 2. È il solito esperimento che stiamo facendo da due giorni, il solito come se fossero due anni che lo facciamo. L'abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi, si chiama Oggi mi è successo che, distribuiamo dei fogli e lo chiediamo anche a casa o su Twitter se c'è qualcuno che ce l'ha e vuole frequentare l'hashtag Oggi mi è successo che, per cui le persone mi scrivono semplicemente su un foglio che cosa gli è successo in questa giornata e abbiamo composto un racconto un attimo fa che era l'insieme di tutte queste storie. Massimo, Torino, le persone che incrocio mi chiedono chi sono. Il pass d'invito riporta la parola onore. Soluzione: ho coperto il pass con la tesserina pulisci telefono di Radio 24. Chi è Massimo? Ma Massimo, tu sei una persona importante, quindi mi sembra. No. E perché allora tutti quanti ti chiedono chi sei? Perché hai il tesserino così to. Ma un attimo solo che arriva Laura Vanossi, che sta intanto inciampando in una serie di persone che stanno passando sui gradini della radio. Buongiorno, eccoci qua. Massimo, dicevamo, tu hai la parola onore scritto semplicemente perché era imbarazzante circolare e ma venire. Ospite onore vuol dire ospite d'onore? Penso proprio di sì. Ma tu cosa fai qui? Sono venuto al salone. No, l'ho capito, però se sei ospite perché qualcuno ti ha invitato. No, vabbè, Radio 24 sono un affezionato ascoltatore. Non ce la racconti giusta, Massimo. Tu ci nascondi qualcosa, no, io lo davvero. So. Sì, hai la faccia di quello che nasconde qualcosa. Ti faccio vedere come l'hai coperto però sta roba ospite d'onore. Ma un genio praticamente. Non ho capito cos'è quella cosa lì. Quello è uno dei tanti gadget che diamo con le splendide hostess di Radio 24. Per cui chiederei un applauso, anche se Bonini mi odia quando chiedo gli applausi. Veniamo all'ebook. Allora, no, è presto. Quanto manca, Tiziano? Ormai c'ho il panico di minutaggio. Me lo disegna 8 minuti. Ma così a caso, non ha neanche guardato. Tra l'altro, ecco, vorrei ringraziare Davide Ciocia per portare sempre il suo orologio da casa. Eccolo qua, che è quello con cui ci regoliamo quando siamo in giro. Leggiamo qualche altro. Oggi mi è successo che Nicola, Torino, oggi mi è successo che ho fatto un'ora di anticamera da un cliente. Nicola, sei tu, ti ho beccato. Guarda, sai perché ti ho beccato? Perché hai la faccia di uno che andava da un cliente. Cioè sei vestito come uno, che lavoro fai? Il promotore finanziario. Esistono ancora i promotori finanziari? Per Dio. Tu pensa, cioè tu cosa promuovi esattamente? Io faccio consulenza finanziaria per conto di una banca. Quindi vendo prodotti finanziari, fondi di investimento, okay. Titoli. E c'è gente che compra ancora, sì. Cioè ci si fida ancora delle banche. Lo dico senza essere barisoni. Cioè. Ma mi piace pensare che il mio essere promotore finanziario, comunque la crisi delle banche in realtà mi sta aiutando. Quindi il fatto di essere vestito come per un matrimonio fa parte del lavoro? Ahimè sì, un po' l'abito fa il monaco. Grazie mille. Adriano, da Montagnana. Ho dovuto rinunciare a bere il caffè perché era chiuso. Chi è Adriano? Sei tu Adriano? Sì, sono io. Dov'è Montagnana? È in provincia di Padova. Ma quindi sei tu che vieni da più lontano? No, non lo so, ho sentito l'Aquila prima. Sì, ma l'Aquila era un bluff, era qui per il salone. Tu sei qui per noi. Sì, no, nel Salone del Libro. Vabbè, ma anche per voi. Facciamo che adesso uno a caso mi dice che viene da Roma ed è qui apposta per me. C'è qualcuno che viene da Roma? Niente. Grazie, la signora con gli occhiali da sole allo stand viene da Roma. Montagnana in provincia di Padova, non ho capito il tuo caffè preferito a Padova, quindi. No, qui a Torino. Perché tu frequenti Torino? Due o tre volte all'anno. Non ci vuoi dire perché? Sei un po'. No, due o tre volte all'anno. Non ci vuoi dire fatti tuoi? No, sono qua in vacanza, allora. Ma cosa fai nella vita? Faccio un impiegato. di un'assicurazione. Ma ho capito, fa così ridere? Sì, fa ridere fare l'impiegato? Sì, sì. Ma, di un'assicurazione, quindi vendi assicurazioni? No, no, no. No, fai proprio l'impiegato, benissimo. Sì. È che vuoi essere lasciato in pace, esatto. Adriano, giusto? Lucia, Lonigo, provincia di Vicenza, sei tu. Ho incontrato mio amico Riccardo, era da un po' che non ci si vedeva perché avevamo litigato. Eh sì. E cosa è successo con Riccardo? Niente. E lui ci provava? No, no. No. No, no, è anche è qui, per fortuna non mi sente, altrimenti non so, se la prenderebbe. Tutto a posto comunque. Sì, tutto a posto. Nome Mario, provenienza Avellino. Ma perché non vi palesate quando vi dico Avellino? Oggi mi è successo che ho trovato un libro bellissimo. Chi è Mario? Mario? Niente, questo è un fake ovviamente, ma l'avrei fatto anch'io un fake, tipo vengo da Parigi. Francesca, provenienza Scozia. La nipote che studia in Scozia mi ha pregato di venire da Matteo perché non si può non vederlo dal vivo. Ti segue dalla Scozia tutti i giorni e le piace moltissimo. Ti manda i suoi saluti. Ciao Francesca. Eccola là, Francesca. Francesca, quindi tu di fatto non ascolti il programma. Racconto. Non ascolti il programma. No, non sai. Assolutamente. Non mai sentito. Ma non ascolti la radio proprio. No, proprio niente. Che radio ascolti? Nessuna radio. Cosa fai nella vita? La esodata. Sei un'esodata. Allora stai qui, sì. Che c'è gente che si occuperà di te più tardi, sicuramente. Grazie. Invece tua nipote, sì. Tutti i giorni dalla Scozia. Dalla Scozia. E cosa fa lei in Scozia? Studia all'università. Che cosa? È difficile spiegare. Studia antropologia, ma anche inglese. Anche un po' di economia e commercio. L'università in Scozia non è variegata. Ah, perché, okay, no, perché no. L'università. E perché in Scozia? Perché c'era posto lì. Perché c'era posto lì, sì. Grazie Francesca. Andiamo, perché sennò Bonini mi lincia. Visto che dicevamo l'ebook è la raccolta delle storie, ce ne sono alcune che sono molto molto divertenti. Ve ne leggo un pezzo che è il pezzo finale di Nicola, che doveva essere qui perché mi pare sia di Torino o di Cuneo, ma non c'è. È un racconto che si chiama I mondiali in Pakistan. La storia ve la racconto per 3 minuti? Ma abbiamo 3 minuti alla fine, Tiziano? Ok, allora vado subito. È la storia di questo ragazzo che va in Pakistan e quando è là si ricorda che ci sono i mondiali. È il 2006 e convince i suoi amici a guardarsi i mondiali nell'albergo in cui stanno. Arriviamo all'hotel. Il padrone ci fa le feste e ci prepara addirittura il pollo. Dopo pranzo vedo suo figlio, gli sorrido, ma lui è serissimo. Mi si avvicina e mi dice che per l'indomani, c'è la finale, ci potrebbe essere un problema. Cioè, in che senso, gli domando? Nel senso che da 3 giorni la luce va via in tutta la valle intorno alle 7 di sera e torna solo la mattina. Me lo dice con un tono funereo e poi aggiunge, mi dispiace, quasi come se fosse colpa sua. Dopo un momento lo guardo e gli dico, amico mio, per me questa partita è molto importante. Cerchiamo un generatore, ci sarà in uno di questi assurdi hotel per pakistani danarosi un generatore. Ore 10:45 di sera, siamo lì, noi occidentali e qualche pakistano. La tele ovviamente non si vede. Si vede una schermata fissa, pare della radio cinese, ma di immagini neanche a parlarne. Passano 5 minuti e il ragazzo della guest house, palesemente in difficoltà, mi dice «chiamiamo un tecnico». Ore 10:55, una jeep arriva letteralmente sgommando nel cortile dell'albergo e scende il tecnico. Fuori è tutto buio. Nella sala gli occidentali chiacchierano, i pakistani arrivano e prendono posto, io soffro. Ore 11:05, ancora nulla. Ore 11:10, compare l'immagine, applausi e felicità. Poi vedo il punteggio, in alto a destra, 1-0 per la Francia. Mi accascio sul cuscino, per terra. Da quel momento però, solo gioia. Questo dal mio diario di viaggio, scritto verso le 2:10 del mattino. Campioni del mondo nel posto più assurdo che potessi immaginare, in una sala con divani e un enorme tappeto appeso con un orso orripilante disegnato sopra. Campioni del mondo a Karimabad, coi francesi, un australiano e 15 pakistani che applaudivano. Gli ho pure fatto l'inchino a fine partita. All'inizio non si vedeva nulla, poi arrivano le immagini verso le 11:10. I francesi sono già avanti 1-0. Non hanno neanche fatto vedere un replay del fallo da rigore, solo il tiro di Zidane. Nell'hotel non c'era nessuno che capisse una cippa di calcio. C'erano degli oh per ogni minima azione. Tensione, il gol di Materazzi, il colpo di testa di Zidane parato da Buffon, il tiro fuori di Ribéry, la nostra traversa e il sudore. La stanza caldissima, noi che giochiamo peggio ma che reggiamo. Sono diventato campione del mondo a 34 anni in Pakistan e ho solo potuto abbracciare Pietro e Dodò, ma mi è bastato. Avrei voluto essere a casa per poter stringere tutti, ma quando ho visto la palla di Grosso entrare non ho capito più niente e sono saltato addosso ai miei 2 amici. Adesso festeggiamo sotto le stelle perché la valle è buia. C'era luce solo dove eravamo noi. Questa storia è una storia scritta da Nicola Ferrero, che doveva esserci, c'è, dov'è? Ciao, Nicola, eccolo qua. Dobbiamo chiudere. Nicola, ricordaci come sei, come hai convinto degli amici a rimanere, invece che andare in giro per il Pakistan, a vedere una partita, più di una poi, le hai viste tutte di fatto? Sì, quarti, la semifinale e la finale. No, non ho convinto nessuno. Io a un certo punto ho detto, eravamo in un posto assurdo, gli ho detto io vado in un posto minimamente più assurdo e loro sono venuti con me. E chiudiamo, dimmi solo quanto ti è costato il viaggio in Pakistan. 300 euro per un mese. Vabbè, di volo avrai speso di più. Ah vabbè, sì, il volo, no. Questi 2000 euro li avrai spesi per vedere, no, la partita? Neanche. 1000. Solo in Piemonte, tu sei cunese. Di Bra. Sei di Bra. Grazie a tutti quelli che sono stati qui, grazie a quelli che vengono domani alle 18. Questa era Voi Siete Qui, Radio 24 continua con Chiedo Asilo e poi in diretta alla Salone del Libro. A domani.